I lavori di domani di Anna Marino. La sostenibilità parte anche e soprattutto dalle persone e dalle risorse umane che si integrano e lavorano insieme anche agli algoritmi. Ed è proprio l'HR Project Consultant e Instructional Designer che si occupa di progettare dei percorsi per il raggiungimento di obiettivi strategici per le aziende, come ad esempio ridurre il tempo di acquisizione di talenti, allenare le persone sulle competenze di domani, aumentare la produttività e l'engagement delle persone all'interno dell'organizzazione. Questo lavoro però deve porre sempre al centro l'esperienza che la persona, il candidato dipendente, fa con la piattaforma e le soluzioni tecnologiche utilizzate per la creazione di questi percorsi. È un lavoro di ricerca della ricetta di sostenibilità tra risorse umane e tecnologia. E noi, come sempre e come ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app, siti, link utili su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione e, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura. HR Project Consultant Instructional Designer, grazie a Elisa Bonfanti che ci spiega il suo lavoro. Il mio lavoro consiste nel disegno di soluzioni di semplificazione del lavoro dei talenti in azienda, tenendo in considerazione gli obiettivi strategici che hanno le funzioni HR o C-level. Io lavoro in Glicon. Glicon è una piattaforma digitale internazionale che si rivolge a medie e grandi aziende con migliaia e centinaia di dipendenti, con la quale andiamo ad ascoltare i bisogni delle persone attraverso degli algoritmi di intelligenza artificiale, e grazie a questi algoritmi abbiamo la possibilità di far leva sui dati, quindi noi leggiamo i dati per ottenere informazioni rilevanti sulla priorità di queste persone e delle organizzazioni. Davvero importante il fatto che vi occupiate attraverso appunto questi algoritmi di una materia che è una materia umana, e questo vuol dire che c'è una complementarietà nel tuo mestiere, nel tuo lavoro di HR che riguarda appunto le risorse umane, ma comunque anche di designer, cioè che fondamentalmente riguarda anche il futuro, una visione, e consultant, instructional. Ecco, spiega anche i termini e la sostanza che c'è dietro i termini di questo lavoro. La figura dell'instructional designer e project consultant ha insieme due anime: un'anima proveniente dalle scienze umane, quindi che serve per leggere i bisogni, le motivazioni, il talento, lo sviluppo delle persone, e un'anima tecnica invece, un'anima che dialoga con il prodotto tecnologico, con le piattaforme, con i dati, per essere in grado di adattare queste esperienze al contesto contemporaneo, quindi a realtà di formazione digitale, di comunicazione digitale, per rendere appunto questi strumenti più umani. Oggi, soprattutto data la situazione contingente, quello che andiamo a vedere è che c'è bisogno di contatto, c'è bisogno di sempre più comunicazione e collaborazione attraverso i sistemi digitali. Ecco, l'instructional designer e HR consultant tiene al centro le esigenze delle persone. La sostenibilità in questo senso è la sostenibilità dell'impresa grazie a un piano, un planning, il fatto che i talenti vengano valorizzati, ma la sostenibilità anche delle persone e del loro lavoro. Quindi in che cosa declini, insomma, in che cosa è importante la sostenibilità, o si verifica, si mette a terra la sostenibilità nel tuo lavoro? Quello che noi facciamo è semplificare la loro esperienza di ogni giorno, vuol dire rendere il lavoro veramente più semplice, più efficace, e metterci in ascolto. Il nostro lavoro è quello di abilitare, utilizziamo le parole people ability, abilitare le persone a dare il meglio di sé ogni giorno. Lo facciamo in due modi sostanzialmente. In primo luogo con degli elementi di ascolto, quindi non parliamo più di processi, ma esperienze di scambio continuo tra l'organizzazione e la persona attraverso questi strumenti di ascolto. Tornando un attimo sulla tecnologia, è quello della sentiment analysis, cioè avere strumenti che ci permettono di sapere come le persone stanno e di cosa hanno realmente bisogno. E poi invece nella parte di appunto di abilitazione delle persone. Sostenibilità significa dare un supporto continuo alle persone all'interno della loro vita in azienda. Quindi, per esempio, un esempio è il tema dell'upskilling e reskilling. Oggi, come non mai, il tema del talento e del talento del futuro è assolutamente rilevante. E allora è proprio importante capire qual è appunto la tua giornata tipo, cioè come ti occupi day by day di questa formazione anche attraverso questi algoritmi. La giornata tipo di una figura come la mia, all'interno di realtà anche come quella di Glicom, è quella di essere interno tra i vari team, visto che siamo all'interno di una realtà liquida, è quello di andare a vedere con il team che segue i nostri clienti quali sono i bisogni, le necessità, gli obiettivi strategici di questi clienti. Quindi quotidianamente io mi confronto con HR, C-level, grazie anche al team di Customer Success che accompagna il mio lavoro. Quindi ascoltiamo, capiamo quali sono le loro priorità e attraverso lo studio, perché appunto il mio è un lavoro di studio continuo, sappiamo come realizzare operativamente questi bisogni. Gli algoritmi chi è che li prepara? Cioè dove sono preparati? Sono già funzionali, già pronti, insomma, o li fate un po' su misura, o tutte e due? Tutte e due. Allora, gli algoritmi servono per varie funzionalità. Gli algoritmi vanno dall'assessment di determinate conoscenze e competenze, oppure, come dicevo prima, dalla lettura del sentiment. Ce ne sono alcuni preimpostati, altri vengono disegnati sull'esigenza del cliente. E questo è l'altra parte di lavoro che quotidianamente faccio, quindi lavoro con il team che si occupa di prodotto e di analisi dei dati per capire come realizzare, come portare avanti lo sviluppo tecnologico sulla base delle esigenze manifeste nelle aziende clienti, ma anche che leggiamo attraverso appunto nell'ecosistema. Una figura chiave con cui lavoro io quotidianamente è il nostro data scientist, Matteo Garzanelli. Con lui c'è un confronto continuo che ci permette di leggere i dati e dai dati trarre informazioni fondamentali per progettare le esperienze. Per arrivare fin qui, dove ti sei formata? Perché voglio dire, è una complessità un po' come un Lego, una costruzione via via di difficili, insomma, tasselli. Ecco, però per arrivare poi a una semplificazione applicata al giorno, insomma, di lavoro. Ecco, come ti sei formata? Ho una laurea in scienze della formazione e un master in risorse umane con una specializzazione in formazione digitale. In Italia non esiste un percorso lineare per andare a coprire figure di questo tipo. Glicom è una delle poche realtà in cui sono presenti figure come la mia, che ha deciso di investire sull'esperienza, sul disegno delle esperienze. Quindi ad oggi, almeno sul contesto italiano, non sono presenti figure e percorsi di formazione proprio specifici. Il mio consiglio, però, ci sono persone che fanno il mio lavoro e hanno un background che spazia dalle scienze umane, psicologia, UX design, design, data analysis, sicuramente gestione delle risorse umane. Allora, non solo un ritorno in sostenibilità è importante, sostenibilità rispetto appunto alle persone, alle risorse umane, people sustainability, ma anche un ritorno, diciamo, economico, perché la salute economica è importante. Qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro anche a seconda della seniority? Non essendo ancora codificata questa figura, si va dall'entry level, e quello che vedo a livello internazionale è sempre più l'inserimento di figure di questo tipo all'interno delle direzioni di risorse umane, quindi una crescita da un consulente entry level fino ad affiancare le figure con una qualifica di manager quadro. Certo, ed è per questo che noi facciamo questo tipo di trasmissione, perché fondamentalmente è tutto da costruire ed è importante avere, come dire, have a glance, avere un'occhiata su quello che sta muovendosi, perché non c'è niente di predefinito e c'è un gap informativo che è giusto colmare. E allora è ora di prendere appunti, ma li troverete anche sul sito nell'introduzione al podcast. Riassumiamo, prendete carta, penna o i vostri device e via con gli appunti. Quali indicazioni, app e siti per formarsi e informarsi per la ricerca del lavoro? Assolutamente. Allora, un suggerimento chiave è quello di seguire persone, utilizzare il social network LinkedIn per seguire, mantenersi informati, seguendo aziende come Glicon e figure professionali come la mia che costantemente postano informazioni e funzionano da cassa di risonanza per tematiche di questo genere, appunto nuove sul contesto italiano. Un'altra persona che suggerisco oltre a me è Carlo Rinaldi, che è il nostro Chief Marketing Officer, che costantemente mi porta informazioni su questo tipo. A livello internazionale ci sono due principali blog di persone di riferimento, che sono Josh Bersin e David Green. Questo è assolutamente da segnare e da seguire con costanza. Per quanto riguarda una formazione un po' più strutturata, online, grazie alle università estere, i sistemi di formazione sono disponibili sulle piattaforme come Coursera ed EX e LinkedIn Learning, dei corsi specifici per le figure di soprattutto instructional designer, experience designer. L'ultimo elemento che io consiglio sempre di utilizzare è quello di mantenersi costantemente informati sul mondo del business e della strategia, come si sta evolvendo, grazie alle testate giornalistiche, quindi come il Sole 24 Ore, Economist a livello internazionale, e grazie agli insight dal mondo della consulenza strategica come Gartner, Harvard Business Review, McKinsey. Vi segnalo un evento che è in realtà una community che continua attiva nel tempo, tipo l'Analytics and the Future of Work.